la presentazione, il ritorno, ecco, di Ada Zapperi Zucker, che verrà qui da noi il 20 febbraio alle 17.30 col suo nuovo libro Il viaggio di Ermelinda. Sarà con Ada Zapperi Zucker anche Fabio Zamboni e le letture saranno affidate a Sandra Passarello. Ancora un po' di pazienza ai nostri ospiti finché compilano il loro modulo. Sempre alla fine di febbraio, in particolare il 21 di febbraio, abbiamo una ripresa del nostro gruppo di lettura localmente che riguarda la narrativa del territorio. Ci troviamo alle ore 17 e questa volta il libro scelto è il libro Nel gnome del padre. Siete invitati il 21 febbraio alle 17, sempre qua in biblioteca. Ed infine una novità che abbiamo iniziato il 30 di gennaio e che portiamo avanti adesso mensilmente e forse anche con una frequenza maggiore, ed è il gruppo di lettura dei quotidiani e di discussione. E si trova mensilmente e si intitola Facciamo Notizia, una rassegna stampa condivisa. Ci troviamo la prossima volta il 20 di febbraio alla mattina verso le 9:30. Ecco, quindi chi fosse interessato può rivolgersi alla biblioteca e chiedere ulteriori informazioni. E quindi, se siamo pronti, io darei il via a questa serata che è stata concepita con Carlo Bertorelle. Come vedete, è accompagnato questa sera da un tavolo molto ben rappresentativo di quella che è l'attività del Cristallo, dell'associazione e anche di quello che poi viene pubblicato nel periodico di cui noi abbiamo in biblioteca non solo tutti i numeri, ma anche la digitalizzazione che abbiamo fatto in occasione del 60° anniversario in collaborazione sempre con l'associazione. Quindi anche se volete così consultare dei numeri arretrati, abbiamo tutta la digitalizzazione completa della rivista. E questa sera appunto abbiamo con noi, e ringrazio sin d'ora, Maria Clara Pagano, la dottoressa Benedetta Carlotti, Carlo Bertorelle in qualità appunto anche di direttore della rivista e Massimo Bertoldi. È una rivista che tocca tanti argomenti, spesso ha un taglio anche molto politico, anzi dichiarato, no? Questo grillo che vuole tenere sveglie le coscienze e soprattutto rendere attivo il cittadino, partecipare alla vita pubblica anche in maniera consapevole e critica, ma offrire anche delle visioni di alto profilo in tutti i settori. E questa sera abbiamo una rappresentanza di quelli che sono gli ambiti in cui si muove la rivista Cristallo da tanti anni e che, come recita il sottotitolo, è una rassegna di varia umanità, trasparente. Cristallo è una scelta non casuale. Lasciatemi anche ringraziare il presidente che è qui con noi questa sera, che è l'avvocato Negri, che ringrazio per l'attività che svolge anche l'associazione e che questa sera accompagna i nostri relatori e le nostre relatrici. Lascerei la parola a loro. Adesso penso che sia forse Carlo che prende la parola per primo, l'ordine che avete. Okay. È un tavolo bello, bello ricco e quindi sarà anche necessario, mi sono raccomandata di stare un po' attenti sia ai tempi, perché purtroppo gli argomenti sono tanti e soprattutto ci sarà forse l'occasione anche per aprire un dibattito e sentire anche rispondere a qualche domanda del nostro pubblico, che è sempre molto attento. La registrazione della serata è disponibile dal sito, come podcast, come del resto ce ne sono 650. Ecco, ve le dico perché noi in 22 anni abbiamo registrato più di 650 serate, quindi se avete piacere, so che vengono ascoltate, insomma ci sono parecchi podcast e anche questa sarà disponibile poi nei prossimi giorni. Grazie e buona serata a tutti. Provinciale Claudia Augusta, e ringrazio tutti voi che siete intervenuti oggi. Diversamente dalle altre volte in cui presentiamo in genere l'ultimo numero della rivista via via che esce, Questa volta abbiamo pensato di offrire così una visione, un ventaglio di quelli che sono alcuni dei campi di interesse su cui tradizionalmente il Cristallo lavora e pubblica, e quindi le diverse materie, diversi campi, appunto rassegna di varia umanità, con alcuni degli autori, con alcuni dei membri della nostra redazione. Molti altri, alcuni altri sono qua presenti in sala, li ringrazio, come ringrazio tutti, perché abbiamo veramente una schiera di autori, di collaboratori, di saggisti che intervengono ormai da molti anni e con estrema competenza sui temi che trattiamo. E ringrazio anche Giuliano Tonini, il professor Tonini, che è qua presente, che è gentilmente venuto, perché anche lui è autore di vari articoli nel campo della storia della musica, musicologo, esperto docente del Conservatorio di Musica di Bolzano, che riempie, diciamo così, anche gentilmente un vuoto lasciato da due caduti sul campo, cioè Maurizio Ferrandi, che doveva essere qui presente ma è malato, e anche la Angela Grazia Mura, l'archivista, sostituita più che degnamente da Maria Clara Pagano, che ha fatto anche lei questo lavoro di archiviazione per l'archivio delle associazioni alpinistiche e che qui presenterà l'ultimo dossier che abbiamo pubblicato nell'ultimo numero, quello di questo dicembre, è dedicato appunto agli archivi di alcune associazioni alpinistiche di lingua italiana e di lingua tedesca dell'area nostra e dell'area anche austriaca e svizzera. Saranno interventi, diciamo così, quasi poco più che input, diciamo, per presentare quasi in maniera esemplare un qualche cosa di cui abbiamo parlato e che abbiamo trattato negli ultimi numeri, che equivale a dire negli ultimi anni. Temi, diciamo così, di attualità, che hanno una loro valenza culturale, di riflessione, di analisi, di approfondimento, ma che sono sempre collegati anche all'attualità. Quando sento delle persone che mi chiedono Cristallo, il Cristallo, tu sei del Cristallo, e vedo che soprattutto qui a Bolzano pensano tutti quanti al Teatro Cristallo, allora io leggermente stizzito, leggermente seccato, gli dico no ragazzi, perché il Cristallo c'è da qualche decennio prima del Teatro il Cristallo, benemerito che fa attività culturale, teatrale, musicale, di ogni tipo, fa spettacolo, eccetera. Ma la rivista Il Cristallo, così come anche il Centro di Cultura dell'Alto Adige, che ha dato vita a questa rivista, esistono dagli anni 50, quindi hanno una storia ormai 60, quasi 70 anni, e abbiamo nel 2019 ricordato i primi 60 anni di attività. Quindi nel 59, quando è nata questa rivista, c'erano delle persone che, ahimè, non ci sono più, che hanno coraggiosamente messo in piedi questa attività. Qual è la differenza rispetto ad ora? Che allora praticamente nel campo, soprattutto italiano, non c'era niente, e quindi questi coraggiosi insegnanti, intellettuali, esponenti di diverse anche tradizioni culturali che vivevano qui nella città e nella provincia di Bolzano, da Serravalli a Giuseppe Negri, da Claudio Nolet a Lidia Menapace Brisca, da Stelio Danese a Ermete Lovera, nomi che forse a qualcuno diranno qualcosa, no? Ma a molti dei giovani sicuramente no, o quasi, perché li trovano solamente scritti da qualche parte. Questi esponenti avevano deciso di riempire questo vuoto, e quindi provenendo anche da visioni e impostazioni diverse, soprattutto quelle del mondo cattolico, del mondo liberale e del mondo socialista, dell'area socialista e marxista, sicuramente comunque dell'antifascismo e della fedeltà alla Costituzione, volevano dare un'impronta culturale alla vita della città. E quindi conferenze, corsi di aggiornamento, collegamento con la realtà accademica e scientifica italiana, con, attraverso soprattutto conferenze. E poi è nata anche la rivista, proprio per dare una pubblicizzazione all'attività che veniva svolta e ai saggi, le conferenze, le relazioni che si tenevano nel spesso alla sala del caminetto dell'Hotel Città. Cose abbastanza mitiche e di lontana memoria, sto parlando, mi accorgo, di cose di 60-70 anni fa. Ecco, dicevo, qual è la differenza rispetto ad allora? Che allora era praticamente in un deserto culturale per gli italiani, almeno era quasi la più qualificata, prestigiosa, per non dire l'unica attività che veniva svolta, e godeva anche di un riconoscimento da parte delle istituzioni, eccetera. Oggi c'è il mondo, diciamo, nella nostra provincia, c'è un'intensa, intensissima, densissima attività culturale che tocca tutti i campi, ci sono centri scientifici, c'è l'università, ci sono teatri, musica, una vita, insomma, diciamo che almeno come quantità e in buona parte anche come qualità è estremamente ricca e variegata. E allora anche il Cristallo, come rivista, che ha cercato un pochino di riciclarsi e di aggiornarsi, pur tenendo fede ai semi fondamentali di partenza, anche il Cristallo ha assunto più un altro compito, diciamo, e cioè un compito più di analisi, di monitoraggio, di critica, di osservazione, di recensione anche, e di giudizio e di valutazione su quello che è l'insieme delle attività culturali, quindi nel campo artistico e culturale in generale, ma nel campo anche istituzionale, politico, sociale ed economico. Quindi facciamo un'attività prevalentemente di resoconto e di analisi del panorama della nostra provincia in vari campi. Questo almeno da quando, dopo la scomparsa di questi due coraggiosi esponenti, che sono scomparsi tra l'altro nel 2013, un mese dopo l'altro, casualmente certo, ma che erano coloro che tenevano in piedi l'attività del Centro di Cultura e della rivista, il professor Nolet e il professor Giuseppe Negri. E il Centro di Cultura, diciamo così, ha cercato di vedere se era possibile continuare l'attività e alla fine, così, di un certo sondaggio, ha chiesto anche di affidare a me la direzione per gli anni a venire, no? E quindi siamo ripartiti anche con una redazione in buona parte rinnovata e sono passati a questo punto 10 anni, 10 anni dal 2013-14, quando è uscito il primo numero doppio del 2013-2014, con la diretto, diciamo, firmato da me, diciamo così, come direzione, e quindi siamo arrivati adesso a questo momento con una cadenza semestrale. Praticamente ogni numero sono 160-180 pagine, quindi è quasi un libro, è abbastanza faticosa la cosa. Dobbiamo ringraziare naturalmente, oltre ai sostenitori, gli abbonati, gli iscritti, bisogna ringraziare anche gli enti pubblici che sostengono questa iniziativa, che altrimenti non si potrebbe praticare, credo, solo col mercato, insomma, le riviste hanno una vita molto difficile, soprattutto in questi ultimi decenni, diciamo, soprattutto le riviste e le riviste di cultura, e le riviste non di nicchia o di specialistiche, diciamo, di moda o di motociclismo, di ricette, di robe così. Le riviste di cultura, insomma, hanno una vita più difficile degli altri. Naturalmente il mondo digitale, i social, eccetera, hanno aggravato questa crisi che riguarda un po' tutta la carta stampata, diciamo così, no? E le fonti dell'informazione e dell'approvvigionamento culturale. Però riusciamo ad andare avanti, e in maniera direi anche positiva da questo punto di vista, perché riusciamo ancora grazie alla collaborazione di persone estremamente competenti e esperte sulle vicende che trattano, che trattiamo, a fornire dei materiali che hanno il loro valore, che hanno il loro pregio e che possono ancora incidere in qualche modo per chi voglia, per un pubblico diciamo riflessivo e che voglia avere anche degli strumenti di analisi e di giudizio e di valutazione delle cose, no? E non solo essere solo nel flusso così quotidiano delle notizie. Abbiamo modificato un po' anche la grafica, anzi parecchio rispetto al vecchio cristallo che era senza fotografie, bianco e nero eccetera. Adesso ci sono i colori, abbiamo delle copertine come vedete firmate da un grafico Sergio Camin che hanno sempre un impatto e hanno una connotazione anche ironica diciamo o scherzosa in qualche modo o tragica, ma comunque che vogliono dire qualcosa anche come immagine. Abbiamo tentato di inserire, oltre ai saggi vari miscellanei, anche un dossier, in genere una ricerca monografica, un dossier che qualche volta si è espresso anche con degli opuscoli fatti appositamente su alcune tematiche. Ricordo ad esempio i 150 anni della nascita di Ferruccio Busoni, con un bel numero molto completo fatto appunto sulla realtà musicale a Bolzano, cui ha collaborato anche Giuliano Tonini, con un articolo appunto su Busoni e anche Massimo Bertoldi, eccetera, e tanti altri, il mondo della musica di questa città e di questa provincia. Ricordo un altro dossier sull'incredibilmente giovane Renzi, era satira diciamo così, però era un libretto sul nuovo presidente del Consiglio Matteo Renzi, questo nel 2014 o nel 2015. Sì. Ricordo il dossier appunto sui diritti all'accoglienza, diritto d'asilo e accoglienza, coordinato da Adel Jabbar. Ricordo il dossier sulla scuola dell'autonomia, sulle nuove disposizioni in materia di formazione di scuola della provincia e dello Stato, curato da Claudio Vidoni. Tutte ricerche e dossier, approfondimenti curati da persone molto preparate e competenti, diciamo così, in questo campo. E non mi dilungo poi su tutti gli altri campi, letteratura, teatro e via dicendo, musica sempre, analisi delle leggi e delle disposizioni anche normative della questione altoatesina e via dicendo. Io credo che, in conclusione, il filo conduttore, diciamo così, è un filo di collegamento con i numeri del passato, è rimasto soprattutto in questa curiosità, in questa attenzione scevra da pregiudizi, scevra da stereotipi con cui analizziamo le cose che ci circondano, anche le cose della politica, anche le cose istituzionali, verso le quali non abbiamo un atteggiamento preconcetto, ma cerchiamo, come diceva Claudio Nolet, sine ira ac studio, cioè senza mettere in ballo e mettere in piedi tutte le nostre passioni e le nostre feroci simpatie o antipatie, di analizzare la realtà. E lui diceva spinozianamente addirittura, no? Bellissimo questo aspetto di controllo, di dominio delle passioni. Questo lo diceva riguardo alla rubrica che lui ha curato per 40 anni e che si chiamava appunto La provincia difficile, e in cui in ogni numero del cristallo ripercorreva le vicende della politica e dei partiti e dello svolgimento del dibattito e delle situazioni politiche così complesse in Alto Adige. E rispetto all'Alto Adige, anche rispetto all'Austria e all'Italia e le trattative, eccetera. Quindi questa tendenza, questa voglia, diciamo, di partecipare, ma senza la partigianeria, diciamo così, dell'uomo di parte o del conflitto politico, ma con l'idea appunto di contribuire, diciamo, a migliorare, a correggere, a trasformare le cose che ci sono attorno, insomma, un po' tra utopia e un po' tra disincanto anche, perché non siamo ovviamente ingenui, questa voglia di esserci e di dire la nostra su quello che c'è attorno, anche a livello locale, naturalmente, c'è e continua ad esserci, così come c'era nei diciamo così, padri fondatori, diciamo così. Ecco, quindi nell'offrire, diciamo, questa pluralità anche di punti di vista, no? in modo laico e rispettoso delle identità di ciascuno, con indipendenza, pluralismo, rivendicando anche questa nostra indipendenza, io vorrei passare adesso appunto a dare qualche esempio di qualche cosa che abbiamo trattato recentemente, dalla viva voce di quelli che ne hanno parlato. E vorrei ricordare in ultimo due cose. Primo, il passaggio della nostra rivista da Alfa Beta, cioè rimane in Alfa Beta, ma l'editore Alfa Beta che ha editato la nostra rivista dal 2014 e che ovviamente ringrazio perché è stato veramente un compagno di strada ottimo da questo punto di vista, che ha garantito la distribuzione, la stampa, la cura di tutto per questa rivista, ha finito le proprie attività e è stato assorbito da Rezia, ma Rezia continua con l'attività che aveva Alfa Beta, e quindi anche il marchio di Alfa Beta rimane. Un'altra cosa che volevo ricordare, e questa forse è più una nota di tristezza, è accanto ad altri che ovviamente non ci sono più in questi ultimi anni, ma proprio di questi giorni la scomparsa di Albert Mayr, che forse avrete visto, ci sono stati i necrologi in questi giorni. Albert Mayr, che era un importante musicista, musicologo e compositore anche, su tirolese, che viveva a Firenze da molti anni e aveva 80 anni, era il figlio del beato Josef Mayr Nusser, e ha collaborato varie volte anche per il collegamento che aveva con noi a questa rivista, in particolare con dei saggi e degli scritti sia sulla musica sia sulla necessità di lavorare insieme tra artisti su tirolesi del Künstlerbund e artisti e artiste del mondo italiano, sia del campo musicale che del campo letterario e teatrale, eccetera, e anche ha collaborato con alcuni articoli proprio sulla recezione in Alto Adige e del perché in Alto Adige la figura di suo padre era stata così a lungo, diciamo, dimenticata, volutamente dimenticata. E io lo ringrazio naturalmente e lo ricordo. E per passare agli argomenti, diciamo, di questa serata, io partirei dal super esperto di teatro, che è un elemento di continuità del Cristallo da sempre, e che è Massimo Bertoldi, il quale non è che abbia scritto ogni tanto, no, c'è sempre in tutti i numeri, lui scrive di argomenti sempre interessanti che riguardano la vita teatrale in Alto Adige e la vita dei teatri e delle attività teatrali nella nostra provincia. Dopo ci sarà la professoressa Benedetta Carlotti, che ritornerà su un tema trattato nel numero del dicembre del 22 e che riguarda la da poco scoppiata, tragicamente, guerra in Ucraina, e che parlerà di questo riferimento che spesso capita di sentir fare tra la vicenda delle lotte tra Russia e Ucraina per le questioni di confine e il modello di soluzione in Alto Adige che da più parti, sia scientifiche che politiche, è stato fatto come riferimento anche alla soluzione dell'Alto Adige. E dopo Maria Clara Pagano parlerà del dossier dell'ultimo numero della rivista, quello dedicato appunto alle associazioni alpinistiche della nostra provincia. Per Giuliano Tonini, che è la speranza che se gli altri riescono a contenersi, si spera che anche Giuliano possa parlare di quando Gries era una città e comunque della vita musicale che è andato via via riscoprendo rispetto ai decenni e al secolo anche passato, nei suoi studi e nelle sue ricerche di archivio. Grazie. Bene, buonasera. Io scopro che la mia militanza e la mia collaborazione con il Cristallo inizia negli anni 90, inizio anni 90, scrivo da allora. Ho attraversato, ormai penso 30 anni sono circa, di Cristallo, che non sono pochi. Di questo sono molto contento e anche molto orgoglioso. Visto che Giuliano Tonini è qui davanti a me, parto da lui per fare una piccola considerazione. Il Cristallo, nell'ultimo numero del Cristallo c'è un suo contributo che ricostruisce molto bene, con grande dettaglio storico, filologico, la Belle Époque musicale bolzanina. E poco dopo c'è il mio contributo, che invece ci porta nel teatro del presente, il nostro contemporaneo. E è un contributo dedicato ai primi dieci anni di attività di Teatro La Ribalta. A fianco al mio, di seguito al mio, c'è un contributo altrettanto importante, significativo, di Alessandra Limetti sul cosa significa per un attore lavorare con gli attori di, tra virgolette, versi di Antonio Viganò. Non voglio entrare nel merito dei contenuti. Ho fatto questa citazione per dire questo, che il Cristallo, per quanto riguarda l'ambito del quale mi occupo, parlo di spettacolo per non escludere l'amico Torini, che lui invece si occupa di musica, io mi occupo di teatro, ma facciamo parte più o meno dello stesso ambito. Dalla sua origine storica, che Carlo ha ripetuto magistralmente, posso dire che il teatro e lo spettacolo in generale sono stati dei perni, degli elementi fondanti degli studi di questa rivista. Se avete voglia e pazienza, posso assicurare che leggendo i Cristalli, da un punto di vista dei contributi teatrali, non solo miei ma anche di chi mi ha preceduto, si può ripercorrere la storia del teatro locale. Questo perché, per vari motivi. Possiamo dire che il motivo principale è proprio che il teatro a Bolzano nasce più o meno contemporaneamente al Teatro Cristallo. Il Teatro Cristallo è posteriore di 7-8 anni rispetto alla fondazione, per esempio, del Teatro Stabile. E molti protagonisti della scena teatrale sono stati anche molti protagonisti delle scritture ospitate dal Cristallo. Non solo questo, sono stati anche direttori. Negri è stato direttore, fondatore, direttore del Cristallo, ma anche presidente del Teatro Stabile. Nollet non ha avuto cariche all'interno di circuiti teatrali, comunque come assessore alla cultura del Comune di Bolzano ha lungamente e fortemente combattuto e voluto per la costruzione del teatro comunale che sta qui a 200-300 metri da noi. E quindi questo è molto importante. Mi piace ricordare, per non annoiarvi troppo, un paio di piccole perle che sono contenute nella storia del Cristallo Rivista. Mi piace ricordare, per esempio, gli scritti di Fantasio Piccoli, il fondatore del Teatro Comunale, che una decina d'anni dopo, in una situazione di crisi totale del teatro, consegna al Cristallo in due puntate, diciamo, un testo bellissimo, si intitola La vita di un teatro, in cui tra realismo, amarezza, sogni, utopia, dolori, anche disperazione, racconta i primi 10 anni di vita del Teatro Stabile. Ci sono dei racconti, come dire, storici, molto politici, si capisce benissimo il contesto delle difficoltà istituzionali e anche degli ostacoli politici che un'istituzione come quella andava a incontrare in quegli anni. Chiudo questo piccolo passaggio con un ricordo molto bello. Ricordo per esempio come lui racconta la prima serata con cui il Teatro Stabile ha debuttato al Teatro Corso, quando ad un certo punto, per una sera freddissima di dicembre, con il riscaldamento centrale che non aveva funzionato, quindi erano tutti imbacucati e impellicciati, ad un certo punto c'è stato un blackout, è andata via la corrente, e questi giovani attori sembrava avessero frequentato una scuola di improvvisazione americana. C'era un momento in cui c'era in scena una candela e uno di loro ha preso questa candela, era l'unica fonte di luce sul palcoscenico, ha preso questa candela e un altro suo collega di scena ha capito la cosa, è andato dietro il palco a prendere delle altre candele e se le sono passate, hanno inventato questa situazione bellissima, questa improvvisazione magnifica per superare un guasto all'impianto elettrico. Questo mi piace ricordarlo, mi piace anche ricordare il dolore, l'amarezza, sulla quale Piccoli si sofferma molto quando Benassi, che era qui a Bolzano, pensate alla vigilia, alla sera del debutto del Re Lear, si sente male e viene ricoverato all'ospedale, Re Lear salta e un mesetto dopo purtroppo muore. E poi l'ultima cosa, anche questa è molto divertente e simpatica, e poi passiamo ad altro, una tournée, uno spostamento in pullman con gli attori del TSB che sono diretti in Val Gardena in una serata di febbraio-marzo, mi ricordo, e a metà strada sono fermati, bloccati da una nevicata pazzesca. E molti di loro scendono dal pullman e provano, non avevano le catene chiaramente, provano a spingerlo, ma non ce la fanno, la Val Gardena non la conoscono. È un teatro, sì, un teatro d'altri tempi, di 50 anni fa, così, cioè 60 anni fa, che comunque che accompagna la vita di questa rivista. Ma non c'è solo questo, ci sono anche i registi successivi che depositano nelle pagine del cristallo i loro scritti teorici, per esempio. Ci sono gli scritti di Fersen, ci sono gli scritti di Scaparro, che sono dei veri e propri manifesti poetici, drammaturgici e scenici su quello che poi gli spettatori avrebbero visto in scena. Ci sono gli scritti di Scaparro molto, molto politici, di rabbia, di denuncia di quegli anni, che siamo alla fine degli anni 60, inizio anni 70. E poi ci sono anche le cose, delle riflessioni che le ultime aveva fatte Marco Bernardi, se non ricordo male, nel 2006-2007, in cui in questo scritto faceva una riflessione che a rileggerla oggi sembra scritta ieri sulla scena teatrale bolzanina, ma anche in genere regionale, e su quello che secondo lui doveva essere ancora completato in termini di riforma strutturale, istituzionale del Teatro Stabile. Poi ci sono anche altre persone che si sono occupate di teatro e che così mi mettono un attimino in imbarazzo citarle, perché sono non imbarazzo, diciamo un imbarazzo felice, perché sono stati soprattutto il secondo che citerò è stato il mio maestro e io sono stato il suo erede. Il primo che cito è Pietro Agostini, che negli anni 70, quando il Cristallo usciva 3 volte all'anno, alla fine di ogni stagione teatrale scriveva queste note teatrali in cui lui riassumeva un po' sotto forma di ripasso, un po' criticamente, analiticamente, la stagione teatrale bolzanina in senso più aperto. Poi lui ha passato questo tipo di operazione a Umberto Gandini, che personalmente ricordo molto, con molto affetto, ecco il mio vero maestro in termini di giornalismo critico teatrale, e anche lui ha proseguito questo discorso. Quindi il Cristallo ha avuto questi contributi, diciamo, scientifici, metodologici, queste narrazioni poetiche, queste visioni critiche. E, niente, poi spendo 2 parole su me, ma non mi voglio dilungare troppo. Io ho cercato di dare al Cristallo dei contributi inizialmente che avevo chiamato note bibliografiche teatrali. Prendevo, a seconda della contemporaneità delle pubblicazioni editoriali, un soggetto teatrale e presentavo i libri dedicati a lui usciti in quell'anno, quindi si spazia. Poi mi sono occupato anche di teatro storico, perché penso che una rivista come il Cristallo, per quanto riguarda il mio ambito, abbia il dovere di parlare del presente. Certo, lo ha fatto in questo numero, però anche il dovere, come tutte le riviste, credo, culturali, di parlare anche del passato, di recuperare degli argomenti poco noti o dimenticati per vari motivi. E quindi, e con questo chiudo, se dovessi ricordarne uno tra quelli che io ho offerto al Cristallo, ricordo questo perché ho particolarmente a cuore un saggio che ho scritto 2 o 3 anni fa, non ricordo quando precisamente, dedicato al teatro del lavoratore, che a Bolzano è stato dimenticato. Il teatro del lavoratore era il teatro allestito nell'ex lager di Bolzano di Viaresia nel periodo 45-48. Penso che una rivista come il Cristallo debba anche fare questo. Grazie. Grazie. No, stavo riguardando qualche vecchio numero, se qualcuno ha la pazienza di guardarseli o di riprenderseli, in ogni numero troverete 1 o 2 contributi di Massimo Bertoldi, sempre con una precisione filologica puntualissima sul teatro sia del passato che sul teatro del contemporaneo. Vedevo in questo numero addirittura sul teatro di Pasolini, sul 68 di Pasolini nel teatro. E quindi su questo siamo sicuramente molto ben coperti, diciamo così. Purtroppo, mi viene da pensare, manca a tutti forse un personaggio come era Piero Siena, che per 30-40 anni aveva fatto le note d'arte per il Cristallo. Ecco, su quel piano lì delle arti visive, pittura soprattutto, scultura, eccetera, siamo un pochino, come anche sulla danza, e su altre arti che non possiamo definire minori, ma insomma che ci sono in qualche modo, pullulano un po' in qualche parte dell'Alto Adige, siamo un po' scoperti, anzi cerchiamo affannosamente qualche recensore, qualche esperto che possa contribuire a questo. E prima di passare la parola a Benedetta Carlotti, volevo anche ricordare che, scusate, mi permetto di farvi anche un po' di marketing, che c'è disponibile qui presso il fondo della sala la possibilità di comprare dei numeri del Cristallo, anche l'ultimo, l'ultimissimo e anche qualcuno delle copie precedenti, c'è la possibilità di rinnovare o di fare l'abbonamento annuale, che non costa molto e permette di ricevere sia i due numeri del Cristallo sia le pubblicazioni collegate, e che quasi ogni anno riusciamo a fare. Ad esempio adesso è imminente l'uscita di una nuova pubblicazione appunto sulla figura di Piero Siena, collegata al premio Piero Siena. E appunto ricordo ancora questa necessità, insomma, di avere un minimo di dibattito e di dialogo anche sulla rivista, nella rivista e con gli amici della rivista. I testi che pubblichiamo sono quasi tutti praticamente la rivista, ma anche i testi sono anche online, tra l'altro questo anche può essere utile, non è in concorrenza alle edizioni stampate, alla carta, ma il nostro website che cura la pubblicazione riesce a pubblicare tutti i numeri, per cui si possono tranquillamente leggere e scaricare appena qualche mese dopo la pubblicazione e la diffusione in libreria, si possono leggere, scaricare e inviare ovunque. Il Cristallo viene abbastanza studiato, anche letto per certi suoi contributi anche in ambito scientifico, in ambito accademico, anche da studenti o da giovani che fanno il dottorato di ricerca o tesi di laurea. Quindi c'è una rubrica di newsletter, c'è una rubrica di recensioni curata sempre da Massimo Bertoldi, in cui periodicamente vengono recensite a livello abbastanza veloce, insomma, con recensioni in formato digitale, insomma, ma sempre curate da esperti, opere di pittura, di teatro e di letteratura di produzione locale e di attualità, cioè che escono in questo periodo, sono tempestive, ecco, rispetto alla, e anche questo può essere utile per chi lavora sul digitale e chi ha l'accesso, insomma, a tutti gli strumenti di internet. Non che questo garantisca chissà quali pubblico per le nostre cose, intendiamoci, però è una marcia in più. Andiamo avanti, scusate. Benedetta, grazie a te. Allora, io intanto ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio Carlo. A differenza di Massimo, io sono una nuova. è il mio primo, ho presentato, insomma, come diceva prima Carlo, ho scritto il mio primo articolo per il Cristallo a dicembre del 2022. In realtà, e mi presento, sono Benedetta Carlotti, sono una ricercatrice di scienza politica, mi occupo di politica comparata, generalmente politica comparata e politiche pubbliche qui all'Università di Bolzano. E parto subito concentrandomi su il mio contributo, che è stato inserito nella sezione a cui accennava prima Carlo, la provincia difficile. Quando mi sentii con Carlo, penso che fosse a marzo o aprile del 2022, lui mi accennò al conflitto russo-ucraino e mi chiese, insomma, una chiave di lettura di questo conflitto riportata sulla provincia di Bolzano. E io stavo già lavorando in realtà alla tematica con altre linee logiche e quello che mi è venuto in mente è stato appunto provare a proporre un'analisi controfattuale, che ovviamente non vuole assolutamente essere un'analisi controfattuale da 50-60 pagine, stiamo parlando di un articolo di 8 pagine, quindi mi sono chiesta cosa sarebbe successo se in Ucraina fosse stato applicato sostanzialmente il modello di integrazione bolzanina. Questo è stato il ragionamento che ho fatto e tutto partiva da un'affermazione di Gentiloni, una dichiarazione alla stampa del 2015 in cui, la cito testualmente, appunto Gentiloni, interrogato sulla questione russo-ucraina, disse già nel 2015, quindi dopo la prima invasione della Crimea, per intendersi, che è avvenuta nel 2014, disse: non riteniamo che la fornitura di armi all'Ucraina sia una buona idea. Speriamo nel successo del negoziato per l'assetto delle regioni orientali. Potrebbe tornare utile il nostro modello del Sud Tirolo. e oggettivamente, confrontando con tutti i crismi del caso, la situazione altoatesina a quella ucraina, si trovano dei punti di contatto. Innanzitutto si trovano dei punti di contatto da un punto di vista contestuale. Vero è che l'Ucraina è una nazione molto più giovane rispetto all'Italia, del passato, dall'Italia pre-accordi, diciamo. Però è anche vero che all'interno del calderone ucraino, che è veramente un calderone, perché addirittura all'interno si fa fatica a capire quale frattura etnoculturale esista ora. Comunque, per farla breve, sostanzialmente possiamo dividere il paese in due parti. Una parte, quella più ad ovest, che è più filo occidentale, diciamo tutta la compagine pro-europeista, pro-NATO, sto veramente semplificando, e la parte più a est, che essendo anche russofona e quindi con diciamo basi culturali di origini diverse da quelle della popolazione ovest, diciamo ha richiesto a gran voce l'autonomia di autodeterminarsi proprio al suo governo interno. Tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire. Ora la situazione, ovviamente con un conflitto in corso, è un po' più difficile, ma tutto questo è avvenuto pre-2014, quindi queste lotte interine esistono in Ucraina da molto tempo. Quindi ovviamente tutto questo quadro etnonazionalista, che cos'è l'etnonazionalismo? Sostanzialmente è questo desiderio, probabilmente è un concetto molto comune in questo contesto regionale, però è il desiderio, insomma, di autodeterminarsi mantenendo intatte le proprie basi, le proprie origini socioculturali. Quindi, insomma, in questo contesto l'idea, ovviamente, che ho avuto io è stata quella di provare ad applicare il modello sudtirolese, che si basa sostanzialmente su tre concetti chiave: autonomia, uguaglianza e parità, che se implementati in un contesto sociale e politico funzionano, perché hanno risolto sostanzialmente dei conflitti, anche conflitti tra virgolette armati, in una parte del territorio nazionale italiano. Insomma, perché proprio un modello altoatesino? Beh, perché appunto questi tre concetti, autonomia, uguaglianza e parità, non devono essere pensati per trattare tutti nello stesso modo, ma per accogliere a piene mani da una parte l'autodeterminazione dei popoli e dall'altra fornire uguaglianza e parità. Cioè, cosa significa? Garantire dei trattamenti speciali a quelle che a livello nazionale le consideriamo delle minoranze, quindi Donetsk, Donbass, per darvi un'idea, no? E quelle che a livello locale sono maggioranze. Se ci pensate, guardate al sub regionale, i russofoni nelle regioni del Donetsk e del Donbass sono maggioranze rispetto alla popolazione ucraina. Quindi questi tre criteri possono portare a, diciamo, stabilizzare e riappacificare lo Stato ucraino? Beh, la risposta potrebbe essere sì, solo e solo se venissero veramente applicati con una volontà del governo centrale, che ora è dentro un impasse, che non riesce a hanno problemi Zelensky, per intendersi, attualmente. Leggevo questa mattina sul Corriere, Zelensky attualmente ha problemi non solo con la Russia ma anche internamente, stanno pensando a un rimpasto di governo, quindi insomma la risposta potrebbe essere sì, perché ha un modello che funziona. Il problema è che il contesto russo-ucraino è inserito anche nella scacchiera internazionale, quindi si parla di nuova guerra fredda e non ci siamo, secondo me, tanto distanti. Quindi la creazione di nuovo di questi due grossi gruppi, in cui però da una parte c'è la Cina e la Russia e dall'altra tutto il mondo occidentale con gli Stati Uniti. Nulla, il mio contributo era quello di far conoscere da un lato quelli che sono i principi del modello altoatesino, e dall'altro comprendere con un trucco scientifico sostanzialmente se questo modello sarebbe o meno funzionale. E la conclusione a cui giungo è che all'applicazione sarebbe comporterebbe la creazione di uno scenario win-win, cioè dove tutti vincono, perché vincerebbe il governo centrale e vincerebbero anche le compagini etniche che richiedono l'indipendenza. Si farà? Probabilmente no, però insomma la mia idea era quella appunto di ragionare sull'importanza dei tre concetti cardine del modello altoatesino che ci hanno appunto dato la possibilità di evitare il continuo di lotte interne in Italia. E sostanzialmente questa era la mia idea. Spero che possa essere di contributo anche per cercare di capire qualcosa di più di come le potenzialità del modello di autonomia bolzanina sarebbero veramente grandi. E nulla, ringrazio ancora tutti e passo. Grazie. Ringrazio la professoressa Carlotti, perché in effetti, se qualcuno volesse approfondire, è uscito nel numero di ottobre del 2022 questo suo contributo, molto specifico e molto puntuale. Certo, potrebbe qualcuno considerarlo un semplice studio di caso accademico, puramente da esercizio di professori, no? Però in effetti, a parte l'accenno ripetuto dal ministro Gentiloni già nel 2015, poi il tema è stato ripreso con questi riferimenti più volte, sia a livello nazionale che internazionale che anche locale. Uno studioso dell'EURAC, il professor Benedicter, ha scritto un saggio su questo. E più volte anche lo stesso ex presidente Durnwalder ne ha parlato, lui stesso si era recato, mi pare, come inviato da Zelensky in Ucraina e aveva tentato in qualche modo una sua diplomazia personale. E poi anche altri esperti come il professor Palermo, altri studiosi di politologia come Pallaver, eccetera, mi sembra che abbiano più a livello locale, ma è stata una cosa anche più estesa, insomma, avanzato questo accenno. Certo, a prescindere da tutte le enormi diversità e dalle situazioni di guerra e di conflitto e dallo scenario geostrategico, geopolitico che oppone la Russia alla Unione Europea e all'Occidente, insomma, che ci sono e che quindi rendono la cosa effettivamente complessa dal punto di vista controfattuale. Però abbiamo voluto buttare, diciamo così, questo sasso che potrebbe essere un elemento di riflessione, di provocazione, e che però, a nostro parere, in questa, pur diciamo nel si parva licet, così in questo contesto locale che ha funzionato, adesso si torna nuovamente a riparlare molto di questo successo del modello sudtirolese, se ne vuole fare, diciamo, anche un elemento di slancio, di propaganda nel futuro per la nostra realtà altoatesina sudtirolese. Con una sottolineatura talvolta, a mio parere, un po' troppo retorica e autocelebrativa quasi di questo successo del modello sudtirolese, che evidentemente a quanto pare non è così facilmente esportabile altrove, ma che nel nostro contesto ha trovato finora dei riscontri estremamente buoni e positivi. E quindi ben venga che noi lo si cerchi di far conoscere, lo si cerchi di far sapere, diciamo, anche in altre realtà, in altre situazioni. Adesso con un altro volo pindarico molto spericolato, darei la parola, passando da Putin e da Zelensky, al professor Tonini sulla musica altoatesina, sì. Sempre cercando di andare a ritmo veloce. Puoi sederti qua al mio posto, sì. Aspetta che si siede lì. Buonasera intanto, scusate, ma Carlo mi ha contattato solo stamattina chiedendomi se volevo fare un intervento di presentazione del mio ultimo contributo pubblicato sul Cristallo, per cui quello che sono riuscito a fare è di mettere assieme qualche appunto che vorrei condividere con voi. Bene, io è dagli inizi degli anni Ottanta che collaboro con il Cristallo, non con la regolarità di Massimo, però insomma nel corso di questi anni sono stati diversi i contributi che ho pubblicato sulle pagine del Cristallo, tutte inerenti alla storia e alle storie della musica, alla storia e alle storie delle istituzioni musicali locali, dei musicisti locali o dei musicisti che sono transitati qui a Bolzano, in città. Però in questi ultimi anni il focus delle mie ricerche si sono concentrate sui luoghi della musica, vale a dire sui luoghi storici, dove la musica è stata pensata, composta, suonata, cantata, ascoltata. E direi che ultimamente questa ricerca, insomma, da quando, dalla fine ottobre del 23, insomma, Bolzano è stata nominata città creativa della musica dell'UNESCO, beh, questa ricerca sui luoghi penso che acquisti una rilevanza particolare, anche perché voi sapete che insomma, l'amministrazione comunale è sollecitata proprio da questa norma a cercare, ad allargare insomma, gli spazi di fruizione della musica in città. Cioè, il mio pensiero è questo, che se Bolzano è assurda al rango di città della musica, questo è vero non appena far data dal 1949 o dal 1960 o dagli anni 80, vale a dire dall'anno di fondazione del concorso Busoni, dell'orchestra Haydn, di grandi concerti estivi con le orchestre giovanili europee, ma anche in forza della sua storia secolare precedente. E allora ritengo che insomma recuperare la memoria storica relativa ai luoghi della musica, alcuni ancora esistenti, altri che non ci sono più o di cui si conserva solo un ricordo, è quanto mai importante. Per arrivare al saggio pubblicato negli ultimi due numeri in due parti, ahimè, stante le dimensioni, ma voglio dire, non è dipeso da me, è la storia che mi sono incaricato di raccontare, che diciamo è molto articolata. Lo spunto insomma, per questo saggio, quando Gries era una città, mi è venuta dalla mostra allestita nel 2022 a Castelmareccio, Next Stop Gries. Allora l'idea era quella di riprodurre la colonna sonora che ha accompagnato questo bellissimo film girato a Gries nel periodo della Belle Époque, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma anche dopo, nel corso degli anni 20, fino alla chiusura del Kurhaus nel 1935, quindi un arco temporale molto, molto ampio e molto, come dire, con tantissimi colpi e cambi di scena. Insomma, ha voluto raccontare, e direi proprio per la prima volta in maniera esaustiva, dato che sull'argomento la bibliografia è veramente molto scarsa, ridotta, questa straordinaria epopea musicale che è transitata nel salone del Kurhaus di Gries, che era stato inaugurato ancora nell'ottobre del 1884 su progetto dell'architetto Risciara, che allora era immerso nei vigneti di Gries, che faceva appunto comune a sé, e in cui convergevano le migliaia di ospiti del luogo di cura, che allora era uno dei più rinomati e visitati di tutta l'area mitteleuropea. In questa bellissima palazzina Liberty c'era la possibilità di leggere le testate giornalistiche non solo dei quotidiani locali, ma anche di mezza Europa, ma era attivo un ristorante, e soprattutto nel pomeriggio c'erano sempre dei concerti musicali, ma anche la sera concerti offerti da concertisti, da musicisti di transito in città. Però è chiaro che, data anche le dimensioni, la quantità veramente enciclopedica di informazioni raccolte, non mi interessava un racconto puntuale, aneddotico, semplicemente la cronaca, ma fare di questa narrazione un osservatorio critico sulla società, sulla cultura, sui gusti musicali del tempo attraverso un'indagine a 360 gradi sulle formazioni musicali che si sono succedute sul palco del Kurhaus o nel padiglione collocato nel giardino, sui repertori, sulle polemiche, sugli antagonismi periodicamente insorgenti fra le cappelle musicali civili e le cosiddette Militär Musikkapelle, formazioni miste, fiati ed archi. Il resto poi lo diciamo, chi ha piacere di entrare nel dettaglio, cioè rimando all'articolo. Due brevi parole sulla seconda parte del saggio che è apparsa nell'ultimo numero apparso in libreria. Bene, dopo una lunga interruzione nel periodo della Prima Guerra Mondiale, negli anni immediatamente successivi, nel 1921 il Kurhaus riaprì i battenti e così i concerti giornalieri di musica. La storia successiva del Kurhaus si intreccia con quello dell'abitato di Gries, che nel 25 viene incorporato nel comune di Bolzano, mentre nel 29 il Kurhaus viene sottoposto a un radicale restauro per poi riaprire con una nuova orchestrina, e questo è interessante, che trasmette i suoi concerti pomeridiani dalle frequenze della neonata stazione radiofonica bolzanina dell'EE. Sono proprio le prime trasmissioni, insomma, che diciamo, vengono diffuse nell'etere dalla stazione radiofonica di Bolzano. Beh, chiaro, c'è un'evoluzione anche dei repertori, prendono piede i nuovi ballabili americani dell'epoca, il jazz, la canzone d'autore italiana del tempo, e naturalmente tutto questo flusso di musica a termine quando nel 1935 lo stabile, l'edificio del Kurhaus viene ceduto all'Istituto delle Marcelline, che lo trasforma in un istituto di educazione d'eccellenza, di educazione musicale. Bene, dicevo all'inizio questo focus sui luoghi della musica. Io spero che nei prossimi numeri venga ospitato un'altra ricerca che ho in corso su un altro di questi luoghi, parallelo a quello del Kurhaus, dove è transitata tutta la musica bolzanina dalla fine dell'Ottocento fino a tutti gli anni Trenta, ed è quella che diciamo, è tradotta la sala civica, le sale civiche, le Bürgersäle di Piazza Verdi. Io da parte mia mi impegnerò, insomma, di stare in proporzioni più contenute, ma vedo che anche la formula di frammentare, insomma, di non in un'unica soluzione ma in più parti, può essere, anche perché c'è un ricco corredo di immagini, di iconografia, insomma. Bene, grazie per l'attenzione. Grazie a Giuliano Tonini per questo scorcio di vita musicale di Bolzano. Abbiamo avuto diversi passaggi in queste realtà istituzionali, dal teatro che era nel lager di Via Resia nei primi anni del dopoguerra, alla trasformazione dal periodo della Belle Époque al periodo dell'annessione del Sudtirolo all'Italia, e quindi col passaggio poi anche della Kurhaus alle autorità italiane, e poi infine alla musica, all'abbattimento, al restauro dell'edificio in quella zona dove adesso c'è l'Istituto delle Marcelline. E un'altra importante cesura è quella che avviene anche nelle associazioni alpinistiche che erano nate alla fine dell'Ottocento. Il CAI di Bolzano era nato nel 1921 praticamente, ma sulla base di attività che già si svolgevano. Due anni fa è stato celebrato il centenario e per fortuna delle valide archiviste, su impulso della presidenza della sezione CAI di Bolzano, sono riuscite ad organizzare e a riprendere e a ordinare il materiale di questo materiale che giaceva, diciamo, nelle cantine, per poter immaginare una storia, anzitutto una testimonianza e poi anche una storia di queste organizzazioni della montagna della nostra città e della nostra provincia. E su queste ringrazio molto Maria Clara Pagano, che ci intratterrà brevemente, perché riguarda il dossier dell'ultimo numero. Grazie, grazie intanto a tutti anche per la pazienza di essere ancora qui nonostante la tarda ora ormai. Sì, dunque abbiamo fatto, poi adesso farò vedere qualche immagine, un lavoro di recupero dalla polvere degli archivi, sono emerse delle storie interessantissime perché sono riemerse da dei documenti, appunto come si diceva, dalla fine dell'Ottocento, delle guide dell'epoca, al primo libro Soci, che era stato appunto che ci racconta immagini che ci raccontano tantissime cose. Vediamo se riesce a ingrandire. Mi soffermo magari su quel, ecco, che oltre a essere veramente in calligrafia stupenda, raccontano già stesse le due semplici righe rosse sui nomi tedeschi. Sono già un accenno di quello che poi sarebbe successo di lì a poco. Perché questo era il libro da cui si vedono appunto chi erano le persone che effettivamente avevano fondato, e ci sono delle persone anche che poi di fatto erano state attive anche dell'epoca della marcia di Bolzano. Abbiamo proprio dei ricordi anche antecedenti, ma anche dei materiali che riguardano appunto, che erano stati confiscati all'Alpenverein, perché nel 1924, questa è una guida delle pale di San Martino della SAT, tutte con tutte le materiali dipinti a mano, l'Alpenverein venne sciolto e venne sciolto e tutti i soci passarono direttamente al CAI, quindi cioè venne data la possibilità di passare al CAI, ma molti di loro decisero di non parteciparvi. E tra l'altro abbiamo qui anche una tessera di un socio molto interessante, che anche questa immagine unica ci racconta moltissime cose. Mi soffermo un attimo su questa, che anche questa per tutta una serie di particolari. Allora c'è il Monviso, che era la montagna simbolo del CAI nazionale, il Catinaccio, Ebner Luigi, questo ragazzo che però, pur essendo socio CAI imposto parzialmente, poi alla fine si associa solo nel 1934, nel 1936, ha comunque la stella alpina fissa sul petto e poi non rinnova più il proprio socio. Quindi una semplice immagine ci racconta già uno spicchio di storia. Un altro spicchio l'abbiamo trovato bellissimo sui confini, il posizionamento dei confini. Nel 1920 vengono posate tutte le pietre di confine che delimitano il crinale tra l'Italia e l'Austria. Tra l'altro sono pietre di circa dei parallelepipedi di 20 centimetri cubi, diciamo di diametro più o meno, portati quindi con i muli e con a spalle dagli alpini, che gradualmente portavano e posizionavano esattamente sulla linea di confine, presentando anche poi diversi problemi, perché per esempio mentre nel caso del Sattelberg era chiaro che era subito al di là del confine, anche se di poco, questo tenente ci scrive che invece c'è un, guardando le acque che come colano sul tetto, va a delimitare se quel rifugio si trovava in Italia o in Austria. Il risultato fu che questo Landshuterhütte, che poi è diventato rifugio Venne alla Gerla e poi attualmente rifugio Europa, venne spaccato in due, cioè il confine passò attraverso il rifugio. Un'altra storia molto... abbiamo trovato delle mappe anche d'epoca, questa era la Bolzano, non c'era la data, ho cercato di ricostruire ingrandendo di quando fosse la mappa, e vi ho trovato già il monumento alla Vittoria, ma non c'era né Corso Libertà né Corso Italia, non c'era qua né il Druso, niente, quindi a questo punto diventa facile individuare la collocazione, con tutte queste campagne ancora a Laibes, quindi è molto... La montagna è cambiata moltissimo in questi anni, e quindi da lì, ecco, questi erano i raccoglitori così come li abbiamo trovati in cantina, splendidi, però sottoposti comunque a rischio di essere persi, perché erano sottoposti alla polvere, ai calcinacci che c'erano in questa cantina, che poi a sua volta è stata restaurata, e contengono tutte le veline anche della corrispondenza che era stata fatta tra la sede centrale e il CAI di Bolzano, che era diventato praticamente una sorta di avamposto, l'Alto Adige, del regime per demarcare il territorio. Quindi diciamo che durante il fascismo il CAI è stato molto strumentalizzato proprio per essere quello che appunto l'avamposto del regime, tant'è che veniva addirittura comandato direttamente dalla sede centrale e non tramite le strutture territoriali. Quindi il presidente del CAI Alto Adige, che era unico di Bolzano, era direttamente anche il presidente del CAI centrale, quindi c'era proprio un controllo molto, molto stretto. Però c'erano anche, per fortuna, anche chi questo, in qualche modo questo regime lo contrastava. Qua abbiamo due famosi alpinisti, uno è Francesco Iori, che è stato anche ha gestito molti rifugi, ci sono tutti i documenti anche di contabilità dell'epoca della gestione dei rifugi, che era un maestro elementare antifascista che dopo il delitto Matteotti si ritirò solo a gestire rifugi e a dedicarsi pienamente alla montagna, mentre invece Ettore Castiglioni, anche lui alpinista con cui aveva fatto in diverse imprese insieme, lui addirittura invece diventò attivo, aiutò molte persone anche a fuggire in Svizzera, salvando anche Luigi Einaudi, e lui stesso venne a un certo punto imprigionato, riuscì a fuggire con la sua attrezzatura, scarponi eccetera, venne di nuovo catturato, gli tolsero tutta l'attrezzatura. Lui fuggì di nuovo armato, soltanto armato tra virgolette, di un lenzuolo e di una coperta, attraversando il ghiacciaio, però purtroppo morì assiderato subito dopo aver passato il confine. Si nota poi anche come dopo la guerra, poi attrezzatura alpinistica, dopo la guerra ci fu una cesura, proprio un netto cambiamento. Il CAI smise di essere un avamposto del regime e invece tornò ad essere, cioè, un'associazione dedicata all'alpinismo vero e proprio, con una serie di bellissime escursioni appunto anche nel territorio ex nemico. Quindi c'era la voglia proprio di tornare alla vita. Parallelamente a questo lavoro che ha fatto il CAI Bolzano, più o meno anche l'Alpenverein ha iniziato negli ultimi anni un lavoro di recupero del loro archivio storico, il quale appunto nasce però dopo la guerra, proprio perché era stato disciolto prima della guerra, quindi i materiali che si trovano sono quasi tutti esclusivamente post-bellici. Hanno preso anche contatti, stanno digitalizzando anche il loro archivio, cosa che faremo anche noi. Abbiamo avviato anche una collaborazione, un rapporto di collaborazione con l'Alpenverein, e loro sono anche in contatto con il Deutsches und Österreichisches Alpenverein. Contemporaneamente anche la SAT, che è la società alpinisti e tridentini, che era stata fondata ancora prima del CAI, ancora durante l'impero austro-ungarico, che era la sezione italiana tra virgolette dell'Alpenverein, che aveva invece natura alla fine 800, inizio 900, decisamente irredentista. E quindi è più antica rispetto al CAI di Bolzano, quindi nasce alla fine dell'Ottocento, più o meno contemporaneamente alla nascita delle altre associazioni alpinistiche, anche inglesi e germaniche. Quindi loro hanno anche loro documenti molto, molto antichi, su cui c'è anche appunto uno speciale sulla rivista. Quindi diciamo io ringrazio per lo spazio che il Cristallo ha voluto dare a questo, alla montagna, alla memoria della montagna, che come si diceva prima, la montagna ha diviso, è stata oggetto di divisioni, di confini, di contenziosi, di confini bellici. Pensiamo a tutte le cime da conquistare durante la Prima Guerra Mondiale. Con l'Europa unita si è fatto un grandissimo passo avanti nella montagna, che di nuovo torna ad unire, perché quando si va in montagna insieme nasce uno spirito così di collaborazione molto bello, di vicinanza umana. E poi anche ultimamente con i temi ambientali, che ci uniscono di nuovo molto. Quindi contemporaneamente cerchiamo di agire per sensibilizzare il più possibile. Ecco, detto questo, io vi ringrazio ancora. Grazie Maria Clara. È stata presentata anche presso la sede del CAI recentemente questa ricerca. Forse qualcuno si chiederà come mai il Cristallo si occupa anche di questo archivio. Gli archivi sono una cosa che ci piace molto, perché il nostro interesse per la storia è stato costante da sempre, e gli archivi sono la strada della storia, insomma, l'anticamera della ricostruzione e della storiografica dei fatti. E quindi grazie anche a questa ricerca di archivio, con tanti auguri che possa effettivamente maturare questa organizzazione anche in rete degli archivi, una volta che siano completamente riordinati e organizzati tra le diverse associazioni delle nostre regioni alpine, sia al di qua che al di là dei confini, quindi compresa l'Austria, compresa la Svizzera, compresa la Germania. Già c'è molto lavoro di questi archivi in rete, e probabilmente deve ancora andare avanti, e continueremo in qualche modo ad occuparcene. E con questo, per noi, diciamo, abbiamo cercato di dare un po' uno sguardo di insieme, almeno su qualche aspetto, ecco, del lavoro che fa questa rivista. Vi ringraziamo, ma se probabilmente speriamo che ci sia un aumento anche del gradimento e dell'interesse per questo lavoro, che si possa anche tradurre in un riscontro, diciamo, anche fattuale, nel senso che possa incidere, ecco, questa rivista. Non è l'Arcadia, non è soltanto un divertimento, un intrattenimento da decorativo. Noi crediamo che sia un impegno civile, appunto, come abbiamo detto, un impegno civile e culturale, e su questo continueremo. Ecco, vi ringraziamo, vi auguriamo ancora buona serata. Grazie a Carlo Bertorelle, grazie a tutti i nostri ospiti, e grazie a voi per essere venuti qui questa sera. Grazie ancora, buona serata.